Anni 10, suoni, parole e figure di Stefano Pistolini. Drug and human smuggling, home invasions, murder. We're outmanned. Of all the illegals in America, more than half come through Arizona. A riconoscere questa voce è quella di John McCain, il nominato repubblicano per la corsa alla Casa Bianca, poi sconfitto da Barack Obama, che comunque non demorde, corre per l'Arizona nelle elezioni di medio termine a novembre e ha messo in circolazione questo spot che stiamo ascoltando in sottofondo, uno spot che vi vogliamo segnalare per capire di che cosa si sta interessando, che cosa sta guardando, soprattutto che cosa sta discutendo l'America oggi. E questo spot, come dire, un pochino lascia sorpreso, soprattutto perché viene da un repubblicano, da un conservatore americano, ma uno che è sempre stato noto per le sue posizioni aperte, riflettute, frutto di un confronto continuo con l'altra parte, no? L'altra parte dell'America, ovvero quella progressista. Ebbene, questo spot, diciamo francamente, è piuttosto agghiacciante. McCain passeggia insieme a uno sceriffo lungo un recinto, anzi, per meglio chiamarlo, che poi capiamo subito essere il confine del suo stato, l'Arizona, con il Messico, e discute con lo sceriffo. Gli dice traffico di persone, traffico di droga, possibilità di invasione della nostra patria, assassini e crimini di ogni genere. Lo sceriffo gli dice certo, e la gran parte di questa bella roba entra negli Stati Uniti d'America attraverso la frontiera della Arizona. È ora, come dicono i due protagonisti, lo sceriffo e McCain, due protagonisti dello spot, di completare il Danger Fence, ovvero quel maledetto muro, ovvero di chiudere dentro, di blindare l'America. Questo dice McCain. Lo sceriffo lo guarda così con l'aria un po' della frontiera e gli dice: è tempo di farlo, e tu, senatore, sei uno di noi. Questo è un tipo di aria, un tipo di argomentazioni, diciamolo pure, un tipo di guerre culturali che l'America si accinge a combattere avvicinandosi all'estate. Supreme Court Justice nominee Elena Kagan will meet today with the very people who'll decide her fate. Now we must determine whether someone who... Questa è l'altra battaglia. Guardate un po' come siamo a cavallo del politicamente corretto all'inizio degli anni 10. È cambiata in modo così radicale l'America, è cambiata in modo così radicale attraverso una svolta secca messa in scena alla Casa Bianca. Si va al voto di medio termine, però si trova a cavalcare i temi del politicamente corretto. Abbiamo appena parlato di immigrazione e di presa di posizione molto secca, molto decisa da parte di un grande esponente repubblicano: costruiamo il muro, chiudiamo dentro l'America. Poi si parla di Corte Suprema, che è, come dire, il cuore caldo dell'America, il luogo dove l'America prende le grandi decisioni sui grandi temi. Come sapete, è stata ammessa ad essere esaminata, ad essere vagliata, è stata proposta dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama, Elena Kagan, come possibile nuovo membro della Corte Suprema. Sarebbe la terza donna, tra l'altro, e questo è tutt'altro che trascurabile, la seconda nominata da Obama, la terza donna a far parte della Corte Suprema. Ma su che cosa soprattutto si discute in queste ore nei media americani? Della qualità probabilmente indiscutibile di Elena Kagan dal punto di vista della osservazione della giustizia, della legalità, dell'applicazione della legge e dei bisogni della legge americana del XXI secolo? No, si discute di tutt'altro, si discute sul fatto se sia o no lesbica. Questa è la questione sulla bocca di tutti, questa è la domanda detta o non detta che i media americani continuano a rinviare, a accennare, a stuzzicare. Questa è sicuramente, sono tutti concordi gli analisti nel dirlo, la domanda calda, quella dal top, no? da picco degli ascolti, che in sede di commissione verrà posta a Elena Kagan, e gli diranno: scusi, lei è lesbica, e questo, come dire, è un momento di riflessione che noi ci dovremmo porre nei confronti degli Stati Uniti d'America, anche perché la Casa Bianca l'ha già detto, lei non è lesbica, e quindi come potete pensare che Ellen Kagan poi vada in commissione a dire sì, effettivamente l'avevo tenuto nascosto a Obama, sì, sono lesbica, sarebbe un vero e proprio crollo, no, della credibilità del personaggio della Casa Bianca, un effetto domino micidiale. La domanda, naturalmente, per l'America, per il mondo, per l'Occidente del 2010 è: ancora in sede di nomina di un giudice della Corte Suprema, un personaggio così centrale, è legittimo chiedere a lui, alla sua storia privata, se è lesbica o no? It's our anniversary. Celebration on. Night will end in some form of excess. Anni 10. Parole. If you are going to have a genuine career in the arts, it's exactly like being a prize fighter or a concert. Questa vocina anche così ben imitata, diciamo, da Philip Seymour Hoffman nella recente biografia cinematografica, è quella vera, questo è lui, di Truman Capote, se c'è mai scrittore che possa essere riverito, venerato, adorato. Un altro al quale, ecco, io avrei mandato lui, manderei lui al posto di Ellen Kagan in commissione a rispondere alla domanda: scusi, lei è omosessuale? Guarderei prima la faccia di Capote che si accinge a rispondere, poi ascolterei la sua risposta. Comunque, Truman Capote, venerato tra i venerabili, sicuramente ha un culto di tali appassionati che sarebbero disposti a spendere molto, non so se disposti a spendere 18 milioni di dollari, che è la cifra per la quale si può acquistare la casa di Truman Capote. Questa è una delle notizie del salotto letterario anglosassone in queste ultime ore. È in vendita il celebre palazzetto, perché lui era riuscito a farsi affittare, facendo così un po' il carino, questo formidabile, a buon prezzo, questo formidabile palazzetto a Brooklyn Heights, che sarebbe la parte di Brooklyn che si affaccia su Manhattan, con quella famosa scalinata dalle curve che ricordano il collo di un cigno, come scrisse lui in un celebre passaggio autobiografico. L'edificio è in vendita, sono 5 piani. Adesso facciamo un po' di marketing qui a anni 10. Sono 11 camere da letto, risale al 1839, ma soprattutto quello che è in dubbio è che in quelle sacre stanze, così sicuramente si muovono i ricordi, le atmosfere, le evocazioni di Truman Capote. He's received national acclaim for the landing dubbed the Miracle on the Hudson, and now federal transportation officials agree Captain Chesley Sullenberger. Chesley Sullenberger è stato un eroe di tante trasmissioni che ho fatto qui da Radio 24, perché ciò che mise in atto un anno e mezzo or sono ormai aveva qualcosa, francamente, di eccezionale, no? È il pilota che riuscì a far scendere quell'aereo i cui motori si erano bloccati dopo lo scontro con uno stormo di uccelli, farlo scendere quell'Airbus nel fiume Hudson, salvando tutti, senza neanche un graffio, tutti i suoi passeggeri. Perché ne parliamo in questa zona di parole, di letture di anni 10? Prima di tutto perché ci sono i famosi due libri che sono seguiti all'evento, ovvero quello autobiografico di Sullenberger, che si chiama Highest Duty, più alti doveri, di cui a più riprese abbiamo accennato, una lettura tra l'altro confortante, interessante. Poi il libro un po' più critico di questo strano personaggio che si chiama William Langevische, che è un ex pilota convertitosi in giornalista. Il libro si chiama Fly by Wire, volare a filo, diciamo così, in cui Langevische tendeva a ridimensionare i meriti del capitano Sully, dicendo: guardate che quegli aerei sono degli oggetti formidabili e scendono comunque. E quindi sì, lui è stato bravo a non fare danni, ma insomma molto va attribuito all'aereo. E poi ci sono i molti articoli, e se siete appassionati di questi argomenti andateli a cercare su Wall Street Journal, su Time, in diversi altri autorevoli testate dedicate al rapporto finale che le autorità hanno formulato dopo mesi e mesi di analisi, di studi e di valutazioni attorno a quella storia. E il bello, e questa è un po', come dire, la parte più piccante, se vogliamo, della notizia, il bello è che in mezzo a molti complimenti, molte congratulazioni, anche le felicitazioni per aver portato a termine bene l'operazione, ci sono anche un paio di tirate d'orecchi a Sullenberger. Insomma, ci sono dei tecnici del volo, delle tecniche di pilotaggio che si permettono di dire al capitano Sully che la poteva fare meglio, insomma, che la sua discesa nell'Hudson è stata, come dire, decente, ma appena appena sufficiente, perché è sceso troppo veloce, l'angolazione non era quella esatta. Non a caso il velivolo si è spezzato in due parti, l'acqua è entrata nell'aereo e, scrivono i tecnici, non ci fossero state le barchette subito accorse a salvare i passeggeri, nelle acque gelate del Hudson in parecchi avrebbero potuto avere problemi anche fatali. Come dire, non si è mai abbastanza contenti. Noi non smettiamo di portare il nostro rispetto a Sully, che resta uno dei nostri eroi del decennio scorso, ormai siamo negli anni 10, in cui uno che non rischia affatto di essere un eroe è un romanziere che invece da una ventina d'anni buoni, forse anche di più, in America, ma anche in Italia, è assolutamente riverito. E fra le vostre letture, magari prima di procedere all'acquisto, vi invitiamo a leggere che cosa il New York Times scrive del nuovo romanzo di Martin Amis, no? Un nome pesante, un nome importante, un nome molto riverito, letto anche in Italia. L'attacco con cui Michiko Kakutani, capo critico della sezione letteraria del New York Times, liquida il nuovo libro di Martin Amis, che si chiama The Pregnant Widow, ovvero la vedova gravida, insomma, è questo notevolmente noioso nuovo romanzo di Martin Amis è una specie di improvvisazione incasinata attorno all'idea che Boccaccio ebbe nel XIV secolo in quella raccolta di racconti chiamata il Decamerone. In sostanza ci sono un po' di personaggi che vengono giudicati dal nostro critico del tutto poco interessanti, che vanno a fare una vacanza in villa, naturalmente in Italia, perché poi l'immaginario in certi casi percorre strade assai, assai prevedibili, e chiacchierano molto, si rimorchiano a vicenda con insistenza quasi frenetica, litigano, parlano di se stessi, dei propri corpi, della propria sessualità, del tempo che passa. Secondo Kakutani, un bel ammasso di banalità, anche se Martin Amis è subito fatto il pompiere per se stesso, ha detto: ma quale banalità, questa è un'allegoria, no? Un'allegoria della baby boomer generation, la generazione dei baby boom davanti al scomparire, al tramontare della rivoluzione sessuale. Ma insomma, quanti anni hai? 17. Da quanto tempo hai 17 anni? Da un po'. Questa a me è una risposta che mi è sempre piaciuta alla domanda: da quanto tempo hai 17 anni? Un po'. Beh, insomma, io mi sarei, come dire, avrei chiesto maggiori particolari, però lei invece non si sofferma su quella risposta, insomma, che qualche indizio lo dava, perché il nostro eroe Edward Cullen, ovvero insomma il vampiro più famoso del mondo, era così affascinante che perché soffermarsi su questi particolari anagrafici del tutto trascurabili? Sempre in termini di letterarietà o di valore letterario nel contemporaneo, esce la consueta indagine americana sui nomi utilizzati dagli americani per battezzare i propri figli, e non a sorpresa il nome che è schizzato avanti di 300 posizioni addirittura, per l'appunto, è Cullen, che poi è anche il cognome, non il nome di Edward, il bel vampiro. Ma non potendolo chiamare un figlio, poveraccio, Edward Cullen, l'hanno chiamato Cullen, perché Edward, se no non si capiva che il riferimento era al vampiro in questione. E dal momento che in America fanno figli molto più da giovani che da noi, e quindi molti ragazzini, molti spettatori di Twilight hanno prodotto degli eredi, anche al femminile si riscontra esattamente lo stesso fenomeno. Il nome che ha saltato in avanti più posizioni, insomma ne sono aumentate i nomi in questione per i nascituri americani al femminile, è Isabella, che poi Bella, no? E siamo sempre lì. Insomma, Twilight ha inciso fino in fondo nell'immaginario degli americani. Anche il cattivo Jacob è stranominato, e addirittura al primo posto tra i neonati americani. Si chiamano tutti Jacob, però la cosa interessante è che anche prima si chiamavano tutti Jacob. Infatti l'istituto in questione ipotizza una cosa molto più astuta, che Stephanie Meyer, l'autrice di Twilight, sia andata semplicemente a consultare il web, a dire qual è il nome più diffuso, che così mi scatta il transfer e l'identificazione, perché negli anni 10 no, il business della comunicazione dello spettacolo si farà anche così. If nobody looked, it's a closed book. You can put your hang-ups on a coat hook. I'm from a puritanical land where they burn witches. I'm the result of a cold figure burning up a sickness. Cure never came, Jesus never helped. We were all to blame, got beaters with a belt. If I hurt your name, I retreat into myself. I won't hurt your name, I keep it to myself with love. Anni 10. Suoni. Lo so, molti di voi avranno gli incubi e si staranno chiedendo se questi sono zombie, se questi sono cadaveri, spettri, se sono, non so, dei ricordi che invece era meglio dimenticare, se sono gli incubi teenageriali che ritornano, soprattutto se sono i Bay City Rollers. La risposta è sì, sono i Bay City Rollers. La musica orribile, se mai ce n'è stata una, degli anni 70 inglesi, poi ribattezzata in tanti modi, comunque sempre con la parola trash, da qualche parte torna sul serio, torna davvero, torna dal vivo, perché questo branco di vecchietti, ma non solo loro, adesso sentirete, si sono rimessi insieme, perché abbiamo già stabilito in passato che se fai il rock, il pop da ragazzino, poi impari a far quello, non sai fare altro, e quindi farai tragicamente il rock e il pop fino alla fine dei tuoi giorni e non se ne esce, per cui cosa fai? Ritornano i Bay City Rollers, che un po' incerto sul fatto di tornare da soli hanno assemblato la più incredibile carovana, insomma, tournée itinerante, insomma, a volte ritornano, ecco, questo è proprio il caso di dirle, che si potesse mai immaginare. È cominciato questo tour in Inghilterra, che si chiama Once in a Lifetime 2010, perché appunto in omaggio alla nostra trasmissione, e comprende per l'appunto i Bay City Rollers, David Essex, gli Osmonds e soprattutto Leo Sayer, che io metterei un po' da parte, ma loro invece non hanno messo da parte, hanno messo nel mucchio di questa qua, che era la musica un po' cretina, quella che si sentiva cantare in autobus, se siete così vecchi da ricordare questi nomi, sentiva cantare in in autobus dalle compagnucce di scuola le si guardava male, perché a te invece piaceva, non so, David Bowie o i Roxy Music, e a loro invece piacevano i Bay City Rollers. Il tour sta avendo un successo micidiale, deve essere uno spettacolo molto creepy per stomaci forti, perché insomma questi qua adesso vanno per i 60 tutti, e non è detto che, visto il successo, si ripeta all'infinito e diventi un po' una vicenda alla Las Vegas, che, come vi dicevo, coinvolge anche Leo Sayer, uno con altre ambizioni, forse sarebbe diventato qualcosa di meglio, ma poi in effetti non lo è diventato, anzi sul Viale del Tramonto aveva una vocina così. Ecco, lui ha fatto un piccolo salto di tono verso il basso, noi ne approfittiamo per salutare, massimo rispetto a Leo Sayer e al suo così dubitabile periodo disco a cui va iscritto questo bel pezzettino che ci stiamo sentendo. Però per la serie A Volte Ritornano, vi rendete conto che ormai, parlando di pop, rock, quello che volete, si parla quasi esclusivamente di ritorni, cioè di gente che lo rifà, le età salgono, no, clamorosamente, 60, 70, c'è gente tranquillamente che annuncia tour mondiali a 70 anni suonati, ne hanno 40 e un tot anche i Blur, che hanno rimesso insieme anche loro il gruppo, hanno sanato i dissapori, hanno fatto quel singolo che è piaciuto tanto in Inghilterra. Adesso ne sentiamo un pezzettino, anzi mandiamolo, si chiama Fool's Day, ovvero il primo aprile, insomma il giorno degli scherzi, e poi rilasciano tante interviste. Se siete appassionati di Brit Rock, se siete appassionati di Inghilterra, di Blur, di Damon Albarn, non avete l'imbarazzo della scelta. Noi ne abbiamo letta una molto carina sul Guardian, in cui Damon dice: sì, è un fatto, risiamo insieme, faremo concerti, però scordatevi un disco, non ce la facciamo, non ce la sentiamo più, forse non siamo neanche più capaci, non riusciamo a prenderci così sul serio da credere ancora, ammesso che abbia un senso, alla dimensione dell'album. No, forse l'album è definitivamente sepolto, no? Con gli anni 10 si sta da un'altra parte, anche il lungo formato artistico musicale non è più quello dell'album. Noi per l'intanto, dice Damon, faremo altre canzoncine come questo 7 pollici, questo singolo, insomma chiamatelo come mi pare, poi un affare ormai virtuale, inconsistente, un MP3 che si chiamava per l'appunto Fool's Day. Allora, uno che invece ha il merito, e questa è una segnalazione vera, diciamo griffata anni 10, non so se questo può esistere, comunque insomma uno che non se n'è ancora andato, nel senso che è quasi al primo giro, non proprio completamente al primo giro, perché ha già avuto una prima carriera quando si faceva chiamare semplicemente Smug, adesso invece adotta la sua vera identità, che è quella di Bill Callahan, evidenti origini irlandesi, anche se lui è del Maryland, e una serie di dischi che curiosamente, no, sta un po' risuccedendo un quarto di secolo dopo quello che era successo con Tom Waits. Cioè questo qui è uno molto americano, con una poetica, una rappresentazione molto americana, che però per la sua forza, non so per quale altro motivo, riesce ad arrivare anche a un pubblico internazionale con grande continuità, con grande affezione, ed è quello che succede anche in occasione del nuovo album di Bill Callahan, un album quasi interamente dal vivo, si chiama Rough Travel for a Rare Thing, ovvero duri viaggi per una cosa rara, per uno scopo raro, molto asciutto. Lui insomma come viene dal lo-fi, no? Dal suono proprio da camera operetta, voce, chitarra, manco tanto accordata, adesso è assai maturato, i suoi pezzi sono semplicemente straordinari, bellissimi, la sua voce non ha pari, tanto più quando si dedica a raccontare in, no, un po' come fossero quadri di opera, ma in formato di canzoni, la metropoli, la città, New York, Manhattan, per la fattispecie, la Bowery. Oh, how can I stand and laugh with a man who redefined your body? Oh, how can I stand and laugh with a little man walking the floors over you and your little body? Anni 10. Figure. A proposito di figure, oggi possiamo ritirar fuori, no, questo argomento degli imbarazzi americani con cui abbiamo aperto il programma, parlando di quello, di quell'imbarazzante spot di John McCain sul muro da finire in fretta tra Arizona e Messico, o quell'interrogatorio che attenderebbe Ellen Kagan, nuovo giudice della Corte Suprema, riguardo alla domanda chiave: scusi, lei è lesbica o no? Perché se n'è andata alla veneranda età di 92 anni Lena Horne, grandissima interprete, attrice, star hollywoodiana, caratterizzata dal fatto che aveva la pelle nera e che tutta la sua carriera è stata improntata a questa condizione, a questa appartenenza, per cui ci sono altri imbarazzi americani anche nello stendere, no, i necrologi, la storicizzazione di questo personaggio, di questa donna importante di Hollywood. Per esempio, solo alcuni hanno tirato fuori il fatto che in realtà la voce meravigliosa di Stormy Weather, di Lena Horne, che canta qua sotto, fosse nella fattispecie costretta ad avere una carriera così piuttosto marginale. Veniva utilizzata in film, più che altro in film indirizzati specificatamente al pubblico nero, e soprattutto veniva fatta cantare tanto nei suoi film. In certi film appariva soltanto per cantare, e sapete perché appariva soltanto per cantare? Perché quando i suoi film poi venivano mandati a sud, verso gli stati del sud, dove il pubblico non aveva voglia di vedere una nera che cantava dentro un film, quella scena veniva presa dall'inizio alla fine e tagliata e rimossa insieme alla scena anche Lena Horne. Un'altra cosa con la quale anche l'America del 2010 non deve smettere di fare i conti. You've got a nice beard going and, Oh yeah, thank yeah. you. How is that, the beard? In my way. Well, is it comfortable? Is it itchy? Is it, are you pleased with it? I'm okay with it, but now you're making me feel weird about it. Questo è uno dei più grandi pezzi di televisione, laddove, come dire, la radio paga il suo duro prezzo, perché ve lo può far sentire tante volte, perché abbiamo tempo, però naturalmente le facce che Joaquin Phoenix fece quella sera davanti a David Letterman non sono raccontabili. Forse, ecco, ci vorrebbe Truman Capote per raccontare quella pazzesca intervista in cui un Joaquin Phoenix con la barba, confuso, gli occhiali da sole, l'aria stralunata, venne prima preso con un certo imbarazzo, poi preso in giro selvaggiamente da David Letterman. La domanda è: ma che è successo a Joaquin Phoenix? Perché per la bellezza di un anno e mezzo di lui sono perse le tracce, arrivavano solo segnali o episodi o rapporti preoccupanti, si parlava di droga, di vita perduta, di peccati di ogni genere, e adesso arriva un documentario firmato da Casey Affleck, che è il fratello di Ben Affleck. Aspettate e vedrete fra pochi istanti. Un documentario che si chiama I'm Still Here, The Lost Year of Joaquin Phoenix. Sono ancora qui, l'anno perduto di Joaquin Phoenix. In cui Affleck, con così un'apparente semicollaborazione da parte di Joaquin Phoenix, prova a raccontare tutti i guai che ha passato attraverso, quell'anno, quei 12 mesi abbondanti. Sensazione generale, è tutta una montatura, ovvero Joaquin Phoenix, forse stufo di fare la star regolare di Hollywood, e il suo amico Ben Affleck, membro di una famiglia di burloni, potrebbero aver montato tutta questa storia come appunto una montatura, nel senso una specie di performance, no? Proviamo a mettere in scena l'attore quando impazzisce, diventa drogato, pazzo e si comporta come un matto, e poi facciamo anche un documentario sopra. Bisogna vedere se a un certo punto, come dire, sveleranno l'arcano. I'm Matt Damon. She's Matt Damon. I'm sorry but it's true. I'm Matt Damon. She's Matt Damon. I'm not imagining it's you. I'm Matt Damon. On the bed, on the floor, on a towel by the door, in the tub, in the car, up against the mini bar. Allora, questo qui è Matt Damon che canta, quella che canta la parte femminile invece si chiama Sarah Silverman. Noi non aspettavamo che il giorno in cui Sarah Silverman facesse qualcosa di importante, come pubblicare una sua autobiografia, cosa che avviene in questi giorni in America, per spolverare questa storia, che è una di quelle che delle figure americane più ci ha divertito negli ultimi tempi. Che succede? Succede che Sarah Silverman è fidanzata con un conduttore televisivo che si chiama Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel è uno spiritoso, è uno grosso, si mette lì e dice scemenze di ogni genere, piuttosto divertenti in televisione la sera. Si inventa, nella fattispecie, si inventa un tormentone. Il tormentone è il seguente: faccio tante scuse a Matt Damon, ma purtroppo la nostra intervista non può andare. Cioè, finge di aver programmato un'intervista con Matt Damon, che però rimanda sempre perché arrivano sempre i titoli di coda. Jimmy Kimmel, vi dicevo, è fidanzato con Sarah Silverman. Sarah Silverman è molto amica di Matt Damon. E i due birichini che fanno, mettendosi d'accordo un bel giorno con tutto quel grande tempo libero, no, che hanno naturalmente le star di Hollywood, quelli che guadagnano tanto, possono pensare anche a produrre degli oggettini come il video in questione, che si chiama I'm fucking Matt Damon, diciamo ho rapporti sessuali con Matt Damon. In pratica la fidanzata di Kimmel decide di sposare la causa del perseguitato, degli oggetti, degli scherzi del suo fidanzato, ovvero Matt Damon, e insieme fanno questa canzone in cui ipotizzano di avere una storia, diciamo, d'amore, una relazione assai erotica, e la mettono in musica. I'm Matt Damon. She's Matt Damon. I'm sorry but it's true. Insomma, rapporti sessuali con Matt Damon, scusami Jimmy, ma è vero. Questo è, diciamo, più o meno il testo della canzone in questione. Che succede? Che Jimmy Kimmel, insomma, è un uomo di spettacolo, è un uomo spiritoso, è uno che si diverte, si sente sta canzoncina, vede che prende alcuni milioni di click su YouTube, e alla fine prende il toro per le corna e decide di rispondere in modo deciso alla fidanzata, che così metteva in dubbio la sua fedeltà, e a Matt Damon, che in tutta questa storia, insomma, gioca un ruolo piuttosto equivoco, no? E risponde a tutto ciò con questo qua. Questo non è un video, questa non è una risposta, questo è un colossal. Questo è un colossal che vi invito nel vostro tempo migliore del weekend a cercare su YouTube. Si chiama I'm fucking Ben Affleck, ovvero ho rapporti sessuali con Ben Affleck, dice Jimmy Kimmel. Voi sapete, no? Tutti sanno che Ben Affleck e Matt Damon sono cresciuti insieme a Boston, sono sempre stati amici, hanno fatto carriera, coproducono i film, si dividono le fidanzate, insomma, si dividono tutto, ma Jimmy Kimmel no, però, I P Pip sono sempre per la parola incriminata, appaiono Brad Pitt, c'è Cameron Diaz, molto molto disinvolta in questo video, vi posso garantire, ve lo potete immaginare, c'è un distinto signore come Harrison Ford, c'è Robin Williams e tanti tanti tanti altri, Way Lewis, pensate un po', Way Lewis, tutti Pip, sentiamo qualche Pip ancora? Insomma, personaggi e interpreti di questo tuffo nel demenziale americano molto divertente, ve lo posso garantire. Vi piace l'itizzetto? Qui siamo molto oltre con Sarah Silverman, con Ben Affleck, con Jimmy Kimmel e naturalmente con Matt Damon. I ain't mad at you. That's the only miracle here. Surprising the world with diamonds and pearls. A song about a girl, but ain't really about a girl. Girl. Sarà pure poco da ridere, no? Ma quando c'è l'occasione, perché perderla con appunto questo Porky's americano che non smette mai di rigenerarsi in tutti i modi, anche negli anni 10. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia Alessandro Chiappini per la edizione di oggi di anni 10, le tracce di tutto ciò di cui abbiamo parlato, Truman Capote, il capitano Sully, i Bay City Rollers in tournée, il disco di Bill Callahan, che fine ha fatto Joaquin Phoenix, e naturalmente Sarah Silverman, li trovate sulla nostra pagina Facebook che si chiama Anni 10 oppure Anni 10 Radio 24, la mail anni10@radio24.it, l'appuntamento tra una settimana, state tutti bene.